soldi e dintorni. Allora, Deborah Rosciani non sente nulla. Sento. Dovevo regolare io il volume dalla mia parte questa mattina. Finalmente. Non è colpa tua, casualmente. Chissà. Incredibilmente. Non vedo l'ora di sentire Lino Banfi. Non tubare. Non dovevo non dirlo. Tubare. No, non tubo, dai. Ci dicono che tubiamo. Sì, guarda, ieri mi hanno preso in giro 2000 persone per questa storia che è uscita ieri mattina. Ah, sono crollati gli ascolti. La storia delle tortorelle. Allora. Lino Banfi, dopo dopo, ci sarà dopo, Lino guarda, Banfi, grandissimo, anche. Grandissimo, adoro, glielo dico già se lui sta ascoltando, quindi faccio già questa confessione. Caro Alessandro, allora mi rivolgo intanto buongiorno agli ascoltatori di Soldi e Dintorni. Mentre molti turisti tremano in seguito al crack di viaggi del ventaglio che ha fatto annullare le vacanze a molte persone, tra l'altro c'è stata anche la guerra delle cifre in questi giorni per quantificare quante famiglie siano rimaste coinvolte in questa bancarotta, oggi approfondiremo la cosa a Salvadanaio alle 12, quindi vi anticipo già il nostro appuntamento, ma arriva invece un'altra rassicurazione sul fronte dei possibili disagi in vacanza, una rassicurazione che arriva da Alitalia, perché due giorni fa è stato firmato questo regolamento dalla compagnia italiana insieme a 12 associazioni dei consumatori, e in base a questo accordo sarà possibile risolvere in via extragiudiziale le controversie fra Alitalia e consumatori gratuitamente, percorrendo la via della cosiddetta conciliazione, che è uno strumento per risolvere appunto le controversie di natura commerciale di cui abbiamo ampiamente parlato molto spesso appunto qui a Soldi e Dintorni. Le associazioni che hanno firmato questo accordo sono 12, sono le solite 12 perché ce ne sono alcune molto note che in genere non firmano nessun tipo di conciliazione paritetica. E in ogni caso, cosa vuol dire quando i consumatori, gli utenti di questa compagnia aerea, appunto della nostra compagnia aerea, potranno rivolgersi alla compagnia o alle associazioni dei consumatori per dirimere quali tipo di controversie commerciali? Stamattina ne parliamo appunto con Marco Sansavini, responsabile vendite di Alitalia. Dottor Sansavini, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno. Tra l'altro mi ha stupito molto un aspetto, il fatto che ieri le associazioni dei consumatori, leggendo i comunicati stampa appunto venivano diramati in seguito alla firma di questo protocollo, anzi di questo regolamento, perché tecnicamente si chiama così, vi riconoscono l'atto di coraggio, visto che avete deciso di firmare nel momento in cui l'azienda è ancora in pieno della sua fase di rilancio dopo il passaggio di proprietà avvenuto quasi 2 anni fa. Dottor Sansavini, è molto importante anche per voi questo protocollo, questa iniziativa, regolamento, chiamiamolo come vogliamo. Assolutamente, in realtà più che un atto di coraggio lo consideriamo un atto di responsabilità, anche perché riteniamo di aver raggiunto dei livelli di servizio che ci consentono anche di raggiungere e di rispettare le aspettative dei consumatori in termini di appunto erogazione dei servizi. E sicuramente l'aspetto, diciamo, che in generale ha colpito è che siamo la prima compagnia aerea che lo fa in Italia, e ciò che cambia grazie a questo regolamento di conciliazione che è stato firmato con le associazioni è sostanzialmente che fino a ieri, se un passeggero riteneva di avere subito un disservizio e non si riteneva soddisfatto dell'indennizzo, del rimborso, della spiegazione di Alitalia, poteva soltanto ricorrere alle vie legali, con costi quindi e tempi molto lunghi. Oggi invece con questo strumento offriamo una soluzione che è gratuita e anche rapida, che consente quindi di rivolgersi a una commissione di conciliazione che quindi può offrire una soluzione al passeggero. E infatti, tra l'altro, uno strumento, io lo voglio ancora ricordare ai nostri ascoltatori, che molti conoscono già perché tutte le grandi aziende italiane hanno sottoscritto questi protocolli in passato con le associazioni dei consumatori, mi riferisco per esempio nel Telecom, quindi tutte le grandi compagnie. Qualora ci si ritenesse insoddisfatti di un servizio, prima c'è l'azione all'ufficio reclami della stessa azienda, qualora poi la risposta non fosse soddisfacente c'è la possibilità di percorrere questa ulteriore strada. Alitalia è il primo vettore a sottoscrivere un accordo di questa natura, anche questo è un aspetto che secondo me va messo in evidenza. Allora, ci può fare qualche esempio, dottor Sansavini, quali problemi e disagi del consumatore sono effettivamente presi in considerazione? Allora, in realtà non c'è una categoria di disagi, il disagio è un fatto soggettivo, un passeggero si può trovare in una situazione di difficoltà e ritenere quindi di contattare Alitalia per esprimere questo suo disagio. Il primo passo quindi comunque è sempre il contatto verso Alitalia, e quindi occorre in una maniera molto semplice, perché adesso lo facciamo anche telefonicamente, esiste un numero al quale ci si può rivolgere che è lo 06 22 22, al quale direttamente c'è un'opzione che è l'opzione 5, il consumatore può esprimere il proprio disagio, oppure lo può fare anche molto molto semplicemente nel sito su alitalia.com. Diciamo, sono passati i tempi in cui l'unico modo per contattare l'azienda era quello di prendere carta e penna e scrivere una missiva. Fatto questo, poi appunto Alitalia contatta il passeggero e nella maggior parte dei casi in realtà questo consente di risolvere il problema e di raggiungere una soddisfazione. La conciliazione quindi si attiva successivamente se il passeggero ritiene che la soluzione proposta dall'Italia, diciamo, non sia sufficiente. Le categorie, diciamo, più comuni sono quelle della cancellazione dei voli, dei forti ritardi, dei problemi legati ai bagagli, ma come le dicevo, essendo soggettivo, ci sono anche situazioni di percezione, ad esempio, di qualità inferiore alle attese, quindi la casistica è piuttosto ampia. No, tra l'altro stavo anche riflettendo sul fatto che, per esempio, può anche capitare, magari adesso in piena estate ci si limita un po' da questo punto di vista, per esempio lo sciopero, dottor Sansavini, no? Ammettendo che, speriamo che questo non capiti mai, mi pare che però qualcuno ne sia già in programma per settembre, forse uno, quello di piloti e assistenti di volo del gruppo Alitalia CAI. Lo sciopero naturalmente comporta un disagio inevitabile per gli utenti, appunto, dei vostri servizi. Anche quello potrà essere, per esempio, un disagio che, se sopportato dalla vostra utenza, potrà essere denunciato alla, prima al vostro ufficio reclami e poi eventualmente per una risposta non soddisfacente alla, alla conciliazione? Assolutamente sì, cioè lo sciopero genera una situazione di disagio. Aggiungo che fortunatamente, anche grazie al rapporto, diciamo, molto costruttivo che si è stabilito con i sindacati dalla nascita della nuova Alitalia, in questi 20 mesi di storia di Alitalia, diciamo, di questa nuova parte, non ci sono state situazioni di difficoltà forte legate agli scioperi. In realtà ci sono stati pochissimi episodi, però anche lo sciopero, in effetti, essendo una situazione di disagio, dà luogo a delle forme di protezione del passeggero da parte di Alitalia, quindi ovviamente occorre che, se viene cancellato il volo, al passeggero sia offerto o il rimborso oppure la possibilità di volare su un altro volo. Occorre però specificare che lo sciopero, così come ad esempio gli eventi atmosferici, appartengono alla categoria di quegli eventi che sono, diciamo, cause non di responsabilità dell'azienda, quindi la differenza fra uno sciopero e invece un disservizio legato all'azienda stessa è che si applicano in maniera diversa i cosiddetti indennizi e quindi, oltre al rimborso, ad esempio, si può prevedere che, se il disagio è causato da Alitalia, Alitalia offre non soltanto il rimborso ma anche un indennizzo supplementare. Allora, andiamo alla procedura da seguire per chi decide di percorrere questa strada. Primo passo, dicevamo, il reclamo direttamente alla compagnia, e questo, se non mi sbaglio, va inoltrato entro 60 giorni dal presunto disservizio o disagio che è capitato appunto al consumatore. Eventualmente, in questo caso, praticamente, se la risposta non è soddisfacente, dicevamo, dalla compagnia, quanto tempo per ricorrere alla strada della conciliazione, dottor Sansavini? Sì, in realtà il passeggero deve esprimere, diciamo, la situazione di servizio il prima possibile. Non esiste, da questo punto di vista, un termine di 60 giorni. Il termine in realtà è ancora più breve. Però non appena il consumatore esprime il proprio disservizio, la compagnia si impegna a dare una risposta. In media noi in questo momento mettiamo, diciamo, intorno alle 2 settimane per rispondere, al massimo un mese. Però ci impegniamo in ogni modo a fornire una risposta entro 60 giorni. Se la risposta che Alitalia fornisce al passeggero non è soddisfacente o non arriva entro i 60 giorni, il passeggero ha quindi la possibilità di rivolgersi alla commissione di conciliazione per comunicare quindi che o non ha ricevuto affatto una risposta oppure una risposta non soddisfacente. Tra l'altro, vorrei ricordare che questa strada può essere percorsa o agendo direttamente da voi oppure attivandosi presso una delle 12 associazioni dei consumatori firmatarie del regolamento. Assolutamente. E i tempi in questo caso di una risposta quali sono? Allora, la commissione di conciliazione si impegna a una risposta di tutto il processo entro un massimo di 45 giorni. Tra l'altro, se anche in quel caso la risposta non dovesse essere soddisfacente per il passeggero, poi lì si va avanti e speriamo che non capiti, dottor Sansavini, però non è detto poi che la soluzione in quel caso possa essere soddisfacente per il passeggero? Esatto, cioè un aspetto particolare del processo di conciliazione è il fatto che non è vincolante. Esatto, non è una pronuncia di un giudice. Esatto. Quindi il passeggero comunque ha sempre la possibilità di rivolgersi dopo a un giudice. La conciliazione è sempre un invito alle parti a parlare, a mettersi d'accordo per chiudere una questione. Dottor Sansavini, noi abbiamo terminato, 10 secondi di tempo però per spiegarci anche qual è il vostro prossimo step, la carta dei servizi di Alitalia. Sì, forse ancora più rilevante, perché in effetti consiste nel comunicare in maniera chiara e trasparente a tutti i nostri consumatori consumatori quali sono gli standard di qualità, sia quantitativi che quantitativi, quindi ad esempio quali sono i nostri obiettivi di qualità in termini di puntualità, di regolarità, di tempo di consegna dei bagagli o di risposta al call center, e quindi un passo di ulteriore responsabilizzazione e di trasparenza per quanto riguarda la nostra qualità rispetto ai consumatori. Ci risentiamo fra qualche mese per farci raccontare da lei naturalmente come è andata. Intanto buon lavoro. Grazie mille. Grazie a Marco Sansavini, responsabile vendite di Alitalia, Alessandro, e oggi a Salvadanaio il crack di Viaggi del Ventaglio. Eccoci lì. Ciao. E allora, buongiorno, ciao anche a te, ci troviamo se domattina. Se vinco il Super Nenalotto la posso comprare questa compagnia. Il Super Nenalotto, puoi comprare anche Radio 24. Sì. Il Super Nenalotto, il jackpot è arrivato a 102 milioni di euro, la terzo jackpot di tutti i tempi. In questo momento il Super Nenalotto è la lotteria, il gioco che paga di più al mondo. E parliamo di questo perché ci sono anche le polemiche, c'è chi dice ma è troppo, è immorale, com'è possibile dare 100 e rotti milioni di euro a chi vince? Che ne pensate? È giusta secondo voi una vincita così alta? Qualcuno straordinariamente ci ha scritto se la vinco io è giusta, se la vince un altro è immorale. Eccoci qua alle 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Di che parliamo oggi? Parliamo del Super Enalotto, perché il jackpot è arrivato a 102 milioni, ieri non si è vinto, in questo momento è la lotteria, il gioco che dà il premio più alto al mondo. È il terzo jackpot di tutti i tempi, è il tema del nostro sondaggio. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E vi chiediamo, è giusto secondo voi che un montepremi sia così alto? Qualcuno scomoda anche questa parola, è morale questa cosa? Ne vogliamo parlare con, lo saluto, Cesare Lanza, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Giornalista, scrittore, autore televisivo, ha scritto anche vari libri anche sul tema del gioco d'azzardo, il più recente La carta più alta, edito da Mondadori. Qui io devo dire Cesare Lanza avrà da fronteggiare, eh sì, l'abbiamo cooptato oggi, li facciamo fare di straordinari, il nostro Oscar Giannino. Eccoci qua. Che già faceva cenno con la mano, no, cioè non è giusto. Che non sia... è giusto, contro lo Stato ladro sempre. Vabbè, Cesare Lanza, allora, che dobbiamo scandalizzarci per questi 102 milioni di euro di jackpot? Beh, è un argomento complesso, siccome ho sentito l'espressione lo Stato ladro, io sono d'accordo, ma devo anche ricordare che in tutte le epoche storiche e sotto quasi tutti i regimi politici di qualsiasi tipo, quando lo Stato, le casse dello Stato non funzionano, l'idea brillante di tutti i governi o di tutti i re, di tutti i presidenti, democratici o antidemocratici che fosse, è stata quella di fare nuove lotterie, un modo dolce e soave con la speranza di poter vincere per poter prendere dei soldi, quindi questo è indiscutibile. E se scomodiamo la categoria del morale o dell'immorale? Ecco, su quello invece io non sono, credo abbastanza notoriamente, un moralista, e comunque credo anche nelle regole, cioè se si dovessero rifondare le cose, devono essere rifondate a voce ferma. In nessun gioco del mondo le regole si cambiano a partita in corso, quindi per me il Superenalotto può arrivare anche a quanto è adesso, 102 milioni, può anche arrivare a 200 300. Ma vede, il nostro Angelo per esempio ci scrive un sms al 349 238 6666, ci scrive meglio sarebbe dare 1 milione a 102 persone. Ecco, questo no, il comunismo della vincita, no? Cos'è il problema? Che secondo le menti liberali o comunque approcci modestamente liberali come il mio, il punto non è questo. Se lo Stato non dovrebbe fare lotterie, secondo me, perché è una tassazione indiretta. Nel momento in cui lo fa, quello è il gioco, e alle regole del gioco bisogna stare. bisogna stare. Allora, io Oscar Giannini, adesso ci spiega, già subito ci chiedono: Oscar, spiegaci quanto guadagna lo Stato. Ma prima di questo ti voglio mettere con, come dire, con le mani alzate di fronte a questa dichiarazione. Non potrai fare nulla che cambiare idea. Sai, tu che sei molto molto affezionato alla figura, come me, io sono stato e sono quindi sempre un salesiano, San Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco, ci racconta Vittorio Messori qualche anno fa, che faceva le lotterie per mantenere la sua città dei ragazzi. Il beato Francesco Fa di Bruno, approfittando delle conoscenze a Casa Savoia, organizzò una grande lotteria ai Giardini Reali di Torino. Dunque, questo scandalo, dove lo vedi? No, un momento, nel senso che se la lotteria me la organizza un santo, vero o presunto, io può essere che partecipi. Ah, se me la organizza lo Stato ladro e corruttore, no. Ah, perché io i soldi, ecco, lo Stato ladro e corruttore, vincendo lui 99 milioni di probabilità rispetto alla mia unica, già me ne leva troppe con le tasse. Io non voglio levare a nessuno il diritto di locupletare ulteriormente lo Stato ladro e corruttore, ma io non partecipo. Ma uno che va a giocare la schedina da 2,50 euro, mica pensa in questo momento sto pagando una tassa, dice sbaglia. vinco 100 milioni di euro. Questa è la subito la capacità dello Stato, che non gli fa pensare, lo espropria anche nei sogni. Questo è il punto. Invece dell'American Way of the, che è la cosa, sono bravo, capace, mi affermo, lo Stato italiano, per antica inveterata consuetudine, in questa ragione l'ANSA, perfetto di erede diretto dei Borboni e delle 3F, festa, fuochi e forca, dello Stato borbonico, in questa diretta linea di continuità ti espropria anche dei sogni e non ti fa pensare che gli stai dando soldi in più. In più, ripeto, a chi è in ascolto, ci pensi, lo Stato ha modulato in questi anni per lottare contro i giochi clandestini, perché questa era la grande sfida, sì, alcuni anni fa, ha modulato l'aliquota che prende gioco per gioco in maniera tale da tenerla più bassa sui giochi in cui voleva attirare il più delle persone. Tant'è vero che quello che c'ha adesso il 102 milioni, quella è quella con l'aliquota più alta, perché sa che oramai c'è già di massa, certo. Mentre invece i videogiochi clandestini, il videopoker, lì la tiene bassa, perché così voi tanti topolini andate dietro il pifferaio di Amilan, che ho capito, mi frega. Ma voglio dire, cioè, è anche come quando si dice le statistiche dicono che c'è più probabilità di essere presi da un meteorite in testa che vince, e questo è vero, è la statistica. Per ogni gioco c'è però una... togli il sogno, il sogno di vincere 100 milioni, ma no, ma il sogno di arricchire lo Stato non è un sogno. Chi ha sogni così aridi è meglio che cambi psicanalista. Mm. Cesare Lanza, invece, la questione del gioco d'azzardo. Volevo dire questa cosa che è suggestiva, penso, per chi ci ascolta. Una volta io avevo calcolato che le probabilità sono raffigurabili in questo modo. Noi prendiamo la cartella, il biglietto giocato da tutti, lo mettiamo uno sopra l'altro e si fa una montagna uguale al Monte Rosa. Il vincitore è come un signore che sporge il dito, ammesso che possa, e di fronte all'altezza del Monte Rosa estrae fuori il bigliettino vincente. Vorrei anche precisare subito che io sono favorevole, mi piace molto il gioco, però c'è gioco e gioco. Giannino ha ragione in questo, che questo è un gioco scorretto, perché sono probabilità minime e si vendono sogni. Però anche scorretto, ma uno lo sa, cioè perché è scorretto? Cioè uno lo sa, voglio dire, è libero. In tanti aspetti non si sa. Poi comunque, a proposito di gioco scorretto, il più scorretto del mondo in assoluto è il popolarissimo e storico gioco del lotto, dove le probabilità, e questo la gente non lo sa, sono assolutamente a sfavore del giocatore. Per fare un esempio, il terno viene pagato 4.200 volte la giocata, le probabilità sono 1 su 80.000. Alla roulette il pieno viene pagato una volta, viene pagato 36 volte, le probabilità sono 1 su 37, certo. Quindi è un gioco correttissimo. Allora, 800 24 00 24, popolo di santi navigatori e giocatori di Super Enalotto, cari italiani, eccoci qua, diteci la vostra. Cristiano da Roma, per esempio, buongiorno, che ne pensa? Buongiorno, ma ritengo che il fatto più immorale è quello, appunto, che è così difficile vincere. È immorale. Non è morale, cioè vorrebbe statistiche più favorevoli ai giocatori. Oltretutto, in uno stato dove il gioco d'azzardo è vietato, questo diventa di azzardissimo. È un segnale dei tempi che tanta gente si rifugia in questi sogni proibiti, impossibili, ma poi alla fine il vero colpevole, se ce n'è uno, è chi organizza questo meccanismo per raschiare il fondo del barile. Ah, cioè chi? Lo Stato? Certo. Eccolo là. Sono i seguaci di Oscar Giannino. Grazie Cristiano. Lena da Roma, buongiorno. Lena. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io sono contrarissima al fatto che facciano la pubblicità a questi giochi, perché si sa che sono pilotati. Addirittura, pilotati. Pilotati, cioè che vuol dire? Sono pilotate le estrazioni? Lena. Senta, allora con l'informatica si sa che si può fare di tutto e di più. Ah, vabbè, qua c'è subito, ecco qua, l'animo italiano, sempre un po' del complotto. Oscar, c'è la vicenda anche, per esempio, Win for Life, quello che uno punta e se vince gli danno un vitalizio, no, per quanto gli danno, tot mi... 6.000 e Saretta dall'altra parte mi fa 6.000 euro al mese per 20 anni. Quello è fantastico, lo Stato conosce così bene i suoi polli che applica la voglia di posto fisso a un concorso apposta fatto. Perché siccome se ti faccio vincere uno su un milione non sei neanche capace di amministrarlo, io te ne do un tot al mese per trattare così come se avessi un posto fisso. Certo, trovo una perché cosa... tu 100 milioni di botto sapresti come amministrarli? 100 io milioni no. di botto li puoi investire molto meglio che 6.000 euro al mese, quindi lo Stato ti deruba due volte. Tra l'altro tra poco magari sentiremo anche il sindaco di Bagnone, se riusciamo. Ti ricordi Bagnone, Oscar? Bagnone, provincia di Massa, hanno vinto lì, non si sa ancora, è stata l'ultima vincita, la più grande vincita del Superenalotto, ovviamente non si sa chi ha vinto e non si saprà forse mai. Cesare Lanza, però c'è differenza col gioco d'azzardo? Lei ha detto io il gioco d'azzardo, comunque ha scritto dei libri anche sui casinò per esempio, ecco, è differente il gioco d'azzardo rispetto al Superenalotto? Sì, certamente. Il gioco, a me piace il gioco tra giocatori e il gioco, in alcuni casi, ci sono alcuni giochi, non tutti, nei casinò, in cui le probabilità sono eque. Allora, in questo caso si misura la propria forza, la propria intelligenza, la propria capacità di gestire il momento di fortuna o di sfortuna. E io penso che sia un'ottima scuola per il proprio carattere, perché in sostanza poi un gioco corretto può insegnare a saper vincere e a saper perdere, che sono le cose che in genere noi non riusciamo mai a fare. A questo proposito però poi ho una critica su questo, perché c'è chi dice il Superenalotto la giocata media è 2,50 euro, no? Non è che mentre sul gioco d'azzardo sappiamo che purtroppo per molte persone, per poche, tante, non so, rischia di diventare anche una patologia, ci sono anche purtroppo delle famiglie che sono state rovinate su questo, però magari Non è così. Io nei miei libri ho citato illustri psichiatri affermano che se c'è questa vocazione ad autodistruggersi, c'è comunque, addirittura fino al suicidio, si svilupperebbe comunque e il gioco è uno strumento, sì. Altrimenti sono non è il problema. Drogherebbero oppure assumerebbero alcol o altre cose. Comunque. Allora, però vogliamo sentire il sindaco Gianfranco Lazzeroni di Bagnone Massa. Buongiorno sindaco. Buongiorno. 147,8 milioni di euro era la vincita. Si è saputo, perché cioè, tutti si sono scatenati, i giornalisti, si era anche sparsa la voce di quello che era lui, non era lui, eccetera. Ma si sa, allora lei lo sa chi ha vinto, anche se non ce lo deve dire, lo sa o no? No, io veramente non lo so nemmeno io. Stride questo contrasto tra una comunità, un paese di piccole dimensioni, e sembrava che il giorno dopo le cose si dovessero sapere, anche dalle dichiarazioni, e poi in realtà passa un anno e un anno le cose si sono ingarbugliate ancora. È un po' incredibile, cioè nessuno che ha cambiato stile di vita, Nessuno che ha cambiato stile di vita, non ci sono indizi di così eclatanti, sono cose minime, quindi fanno parte della vita di una famiglia. Ma è vero che lei ha chiesto dei soldi a questo vincitore? Chiaramente i comuni hanno, soprattutto in questo momento, hanno enorme bisogno di risorse per poter mantenere i servizi, per poter impostare anche un minimo di progetto di sviluppo di un territorio. E quindi io ho fatto anche un appello per questo, chiedendo sensibilità, chiedendo a chi ha avuto una fortuna così grande, enorme, che cambierà la sua vita, di cercare di condividerla e fare cambiare anche quanto la vita della comunità. Di quanto si accontenterebbe? Quasi, inizialmente abbiamo parlato di 1 milione, poi in realtà io credo che non serva avere una cifra così subito, ma serva piuttosto un piano, come si può dire, utilizzando una parte degli interessi senza intaccare il capitale, potrebbe adottare qualche opera pubblica e consentire nel giro quindi di diversi anni di realizzarla, quindi con cifre veramente minime, perché per noi è importante avere anche risorse per partecipare a bandi europei, e quindi moltiplicheremmo le risorse che potrebbero dare. Insomma, hai capito, Oscar, devo andare però al traffico, hai capito? E qua c'è anche un comune che dice che in questi tempi di vacche magre basta una vincita al Superenalotto e magari ci sistemiamo qualche problemino. Solidarietà al comune, poi non ci lamentiamo se dopo aver adottato l'opera pubblica e presenta la lista vince le elezioni. il traffico e rientriamo. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Alle 8:46 minuti siamo qui con Cesare Lanza, Oscar Giannino, a parlare anche il sindaco di Bagnone Massa di questi 102 milioni di jackpot al Superenalotto, per capire se sia giusto oppure no che sia una cifra così alta. E c'è da dire che il 76% per ora dice di no, dunque il nostro Oscar Giannino sarà contento. Ma Oscar, io voglio salutare i nostri ascoltatori, voglio far ascoltare, lo ringrazio per essere con noi, Lino Banfi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Lino Banfi non ha mai fatto mistero di dire: sono un giocatore incallito nella maniera giusta. Cioè, no, gioca però il Superenalotto. Non trova immorale, qualcuno dice, o sbagliato una cifra così alta, 102 milioni. Più che incallito, io sono ingrassato. Sono un giocatore ingrassato. No. Delle volte mi dimentico per due mesi addirittura di giocare, però ogni tanto poi ci penso e dico: certo che è una cifra grossa così, no? E non si può proibire alla gente di sognare, quindi io capisco quelli che dicono, io metto da parte, quanta gente mi dice, anche vecchi pensionati, che uno così a sentire la cosa dice, ma chi gliela fa fare, perché spende dei soldi, tanto è difficile, però quelli dice, ci hanno proibito tutto nella vita, sono arrivato a prendere questa pensione minima, semmai che non mi aspettavo, ho lavorato tutta una vita, ho sistemato i figli, perché mi vuoi proibire di sognare quelle due o tre volte a settimana? Anche un euro la volta, faccio un sacrificio, mi compro un gelato meno, però se succede, e questa è la domanda. No, certo, ma questo, ma per me è musica per le mie orecchie. Qui è il nostro Oscar Giannino che dice che non c'è questo sogno, non va bene questo sogno. No, ma tu vuoi infrangere i sogni dei pensionati che giocano? I sogni hanno più probabilità di quelle che lo Stato ti dà questi giochi. Ripeto, la roulette è un gioco, non rispetto a queste robe qua, fatte così dallo Stato. La roulette è un gioco di abilità, non di azzardo. E noi siamo abituati a cos'è? Che questi invece sono i sogni, quelli che offre lo Stato. E la roulette d'azzardo è contrario, matematicamente lo dico, quindi io i sogni sono più realistici. Lino Banfi, ma che fa un pensionato che poi si ritrova con 100 milioni di euro? Perché che fa un pensionato che poi si ritrova con 100 milioni di euro e conquista questo sogno? E questa è la domanda. Allora io per giocare così, siccome quando sto lì vicino a casa mia, io sono tornato dall'Argentina da poco dove faceva freddo, fra l'altro non vedevo l'ora di venire qui, ma non mi aspettavo questo caldo. Ancora non sono in ferie completamente, perché stiamo scrivendo delle cose che devo fare, però ho il tempo lì nella zona di casa mia dove abito, a Piazza Bologna, a Roma, di vedere queste persone anziane con le quali ormai ho confidenza, chi mi dice una cosa, che un altro, i pensionati, i figli, hai capito, mi genero, che ha fatto, e mi raccontano, e delle volte mi fermo delle ore lì. E la domanda è, e se ti succede, dico io, che improvvisamente vinci 100 milioni. Allora c'è chi dice una cosa, io può darsi che non reggo, mi prendo un infarto, c'è chi dice, me voglio, uno mi ha fatto ridere che ha detto, me voglio vendicare, voglio fare tutto quello che non ho fatto nella mia vita, e cioè quanti anni hai? Dice 85, vabbè, che cosa puoi fare? Tutto, voglio comprare uno yacht e poi mi confesso che non sa nuotare come me. Quindi voglio dire, perché per la gioia di fare una cosa che ho visto solo nei film, poi c'è chi dice invece molto più oculatamente, e beh io ho tre figli, cinque nipoti, sistemo quello, compro appartamento a quello, e pur comprando tutti questi appartamenti, i soldi sono tanti, quindi l'importante è non perdere la brocca, come si dice a Milano. Sì. non perché perdere la brocca. È uno che fa impazzisce veramente. Come mi... Intanto la domanda più lecita che mi faccio io, e quindi di conseguenza credo che ci facciamo un po' tutti, è il primo passo qual è? A chi lo vai a raccontare? E infatti a Bagnone lì c'è il sindaco anche di Bagnone, dice non si sa ancora, siamo una piccola comunità, hanno vinto una cifra spropositata, 147 milioni, e non si sa ancora dopo un anno chi ha vinto, che è un po' un mistero, Banfi, perché come è possibile che nessuno a Bagnone perché? Abbia cambiato vita così, di tanto così? C'è un film mio che fa testo su questo argomento, sia pure divertendoci a farlo, però è importante. Al bar dello sport, mitico. Che fai? A chi lo dici? Lì vivevo con mia sorella che non mi amava, mio cognato peggio ancora, non vedevo l'ora di cacciarmi via da casa. Lo dici agli amici intimi e tutti quanti vogliono, e beh, non mi dai niente, non mi compri un palazzo a bere, allora vai da un notaio e ti fidi a lasciare la cosa, dici, ma un notaio, un personaggio serio, uno pubblico, deve. Vai da un direttore di banca? Mai, quello è peggio dello Stato. Ti gestiscono bene poi la cosa, chi lo sa? Ci sono mille domande che uno si fa. Gioca. La solitudine del vincitore, c'è anche questo. So, Cesare Lanza, c'è questo aspetto, cioè quando uno vince una cifra spropositata, che fa? Vorrei suggerire due consigli sugli argomenti trattati per rendere la cosa meno, come dice qualcuno, immorale. Io non penso che sia immorale, ma insomma sarebbe interessante se avvenissero queste due cose. Primo, i biglietti nominativi, per cui si sa chi vince, vengono scacciati i sospetti della signora romana che il gioco possa essere manipolato, perché in effetti è strano che in un paese piccolo come quello non si riesce a sapere chi ha vinto, potrebbe aver vinto voglio dire cose troppo scabrose e querelabili, primo, e secondo, il vincitore dovrebbe quantomeno pagare una tassa adeguata. Il secondo aspetto è il rendere trasparente tutto e quindi dichiarare qual è l'aliquota che prende lo Stato e rendere visibile una operazione, un'opera pubblica fatta a favore dei cittadini. Noi prendiamo per esempio 50 milioni su questi 140, non so quanti siano, costruiamo immediatamente, che so, una scuola, una qualsiasi cosa, oppure insomma, quello che può essere di beneficio. Certo. Allora così non si parlerebbe forse più di scandali. Vediamo. Adesso ci sarà magari anche spazio per un ascoltatore, ma tra l'altro Lino Banfi al bar dello sport, se ricordo bene, la mia gioventù è quello in cui poi tra l'altro la schedina che lei aveva vinto, non era neanche una schedina vincitrice, no? C'era stato era uno scherzo, no? Cioè, addirittura l'avevo nascosta sotto la carrozziera e mi aveva fatto diventare rossa la parte della carne, tanto era il fuoco, diciamo, la voglia di fare chissà che cosa, di vincere. Allora si parlava di un biliardo, era la vincita, parlava un film di una ventina d'anni fa. Esatto. Allora, Carlo da Roma, vediamo che ne pensa, Carlo. Sì, buongiorno, io ho sentito molti dei contributi, non mi trovo d'accordo quasi con nessuno, stranamente. Nonostante io condivida molto il punto di vista di Giannino generalmente, io non trovo assolutamente immorale una cosa alla quale possa aderire volontariamente. Trovo immorale imporre delle tasse che non siano per delle finalità condivise o da uno Stato dissipatore, questo sì, perché lì non mi posso sottrarre, se non con l'evasione, che però è immorale, comunque è illegale. Diciamo. Sicuramente illegale, sull'immoralità dell'evasione. Tant'è vero che nella foresta di Sherwood si rifugiavano i poverini per contrastare la bramosia dello sceriffo di Nottingham. Quindi voglio dire, l'immoralità nel linguaggio liberale dovrebbe essere No, ma lei dice è libero, capisci Oscar, è una scelta libera. Ma infatti l'ha usata Milan sempre la parola immoralità, perché essendo lui non molto liberale vuole farmi fare la parte del proibizionista, cosa che naturalmente lo fa. Milan lo Stato è ladro, lo Stato è corruttore, Milan è ladro e corruttore lo Stato. Se non l'avete capito gliel'abbiamo fatto, te lo faccio faccio ribadire il concetto. Ma no, il problema è che lo capisca chi è in ascolto facendosi conto in tasca. A proposito, sindaco Lazzaroni, qui Lanza ha detto una frase, ma che cosa ci nascondete lì a Bagnone? Insomma, ci dica che sindaco, cosa ci nascondete. In realtà ha vinto lei, sindaco, diciamo. No, infatti, noi non lo volevamo dire, ma ha vinto il comune, facciamo così, in una bella schedina compilata insieme. Cosa ci nascondete lì a Bagnone? Magari, io penso che abbia ragione Lino Banfi quando dice che non bisogna perdere la brocca, credo che questo ignoto vincitore abbia proprio queste caratteristiche, non ha perso la brocca e probabilmente sta facendo le cose in una maniera oculata. Ma che vuol dire se uno ha 100 milioni e non se li gode neanche, ma non è che devo dire che uno si debba il giorno dopo andare in giro con due Ferrari, non bisogna perdere la brocca, ha ragione Lino Banfi, però secondo voglio dire, se uno ha 150 milioni e non li usa. Passerà qualche tempo ancora perché si possa vedere, quando si è calmata ancora questa curiosità, allora qualcosa di più vedremo. Chissà. Io penso proprio di sì. Va bene, io ringrazio tutti, da Cesare Lanza, Lino Banfi, il sindaco di Bagnone, Gianfranco Lazzaroni. I nostri ascoltatori dicono sempre in percentuale al 76% dicono bravi. No, non è giusto. Non giocate. Bravi. Cos'è il concetto, lo vuoi esprimere? Non giocate allo stato ladro. Eccolo qua. Allora, oggi non do la linea ad Oscar Giannino perché è qua, se la tiene. E allora che dire? Devo ringraziare Sara Spreafico in redazione e Peter Bescapè in regia, Oscar Giannino alle 9, tra pochi minuti rimane qui 9 in punto, io invece vi do appuntamento a domattina alle 7:30.